parlato e nella relazione del professor Vasoli, nella discussione che c'è stata dell'Accademia Veneziana o della Fama, mi risparmia di dirvi una serie di cose, una serie di dati, una serie di elementi appunto che già sono stati dati, e nello stesso tempo mi invita, diciamo, a fare alcune precisazioni iniziali. Devo dire subito che così nella scelta dell'argomento c'è anche un margine di casualità, quindi non si tratta certo di proporre l'analisi di questa accademia indicandovi qualcosa di esemplare o qualcosa di particolarmente nuovo rispetto alla cultura cinquecentesca, rispetto appunto alla storia, alla tradizione delle nostre accademie. L'aspetto di interesse invece mi sembra, pur in questi limiti, mi sembra dovuto appunto non tanto all'elaborazione di contenuti e di ipotesi di organizzazione nuove, ma piuttosto legato al fatto che questa Accademia ci propone una riorganizzazione, appunto una ricomposizione di elementi culturali già largamente presenti, già largamente circolanti, ce li ripropone attraverso una forma istituzionale molto articolata. E su questa base cerca un collegamento con lo Stato veneziano. Cioè, questi mi sembrano, diciamo, gli elementi di interesse. Con poi le contraddizioni e anche il fallimento che ne deriva. Rispetto ai problemi che all'inizio di questi nostri lavori ci proponeva il professore Raimondi, direi che questa relazione ha una parte molto limitata, cioè mi sembra che rientri in quella lavoro preliminare, se vogliamo, di scavo di materiale, di analisi molto limitata, che cerca appunto di chiarire un po' come sono andate le cose in uno dei tanti casi, diciamo, della vita accademica cinquecentesca, e che però considera questo lavoro appunto molto limitato, di scavo, non del tutto inutile, in vista anche, diciamo, di una ricomposizione storica più ricca, più articolata della vicenda culturale cinquecentesca, e anche io penso possa essere non inutile in vista, diciamo, di un lavoro di tipo tipologico, quale quello ieri ci proponeva Quonda, che sia però sufficientemente articolato, che ci dia più elementi, diciamo, di conoscenza e di interpretazione. Come già si è detto anche vivacemente nel dibattito su questa e su altre accademie, si tratta di un'accademia di breve durata, di qualcosa di effimero, quindi, ma non certo per andare dietro alcune tendenze della moda. In fondo anche l'effimero ha una sua storia, io penso. Le ragioni del fallimento di un'ipotesi di politica culturale possono essere, a mio avviso, così di altrettanto interesse, o almeno di un certo interesse, quanto le analisi delle ragioni invece di una affermazione. Quindi ecco, tra l'altro, nell'interno di questa esperienza mi sembra che si incontrino elementi vecchi e nuovi, sollecitazioni vecchie e anche però una certa sensibilità per alcune sollecitazioni nuove. E vorrei dire subito che a mio parere questo caratterizza un po' la vicenda, diciamo, del filone neoplatonico per tutto il secolo, e in fondo spiega anche le valutazioni profondamente diverse e contrastanti che di questo filone e degli intellettuali che a questo più chiaramente si sono rifatti sono stati dati. Cioè un misto di vecchio e di nuovo. Ad esempio, il neoplatonismo, probabilmente dico in termini molto generici, poi eventualmente si può vedere di specificare meglio. A mio parere, svolge anche un'azione di resistenza a certi processi in atto, ma si tratta di mettersi d'accordo sulla valutazione che si dà di questi processi di resistenza, ad esempio quando questi processi si volgono contro un nuovo modo di riorganizzazione del sapere e della vita che viene sentito come negativo. Ora, ricordo molto brevemente alcuni elementi, diciamo, della vita dell'Accademia, che in parte già sono stati ricordati. Questa Accademia ha una durata molto breve, viene fondata nel 1557 e viene chiusa nel 61. Il suo fondatore, appunto Federico Badoer, appartiene ad una grande famiglia patrizia veneziana che ha tradizionalmente forti legami anche con la Chiesa di Roma. Nel 57, quando il Badoer appunto fonda questa accademia, è reduce da prestigiose missioni diplomatiche all'estero. Le testimonianze letterarie contemporanee, anche se naturalmente vanno sempre prese così con molta precauzione, sembrano testimoniare una lunga e stretta amicizia del Badoer fin dalla più giovane età, soprattutto con alcuni letterati, soprattutto con alcuni poeti appunto operanti in Venezia, in particolare con Domenico Venier e Girolamo Molina. Ricordo molto brevemente, ad esempio, che il Badoer e questi due poeti sono ricordati insieme sia dall'Aretino nel 1937, sia dal Parabosco nella introduzione ai Diporti, sia nel Doni in uno dei dialoghi della terza parte dei Marmi. E il Tiraboschi, probabilmente rifacendosi a questa tradizione, fa l'ipotesi appunto che l'Accademia rappresenti lo sviluppo di questo gruppo che si riuniva a casa Venier. Ora volevo fare una prima osservazione. Se ai nomi del Venier e del Molino uniamo quello di un altro poeta e letterato che farà parte dell'Accademia, cioè quello di Celio Magno, ecco che un primo elemento mi sembra emergere, cioè il rapporto, il collegamento, diciamo, che il Badoer ha con un gruppo di poeti, di letterati, che la tradizione critica contemporanea, ad esempio il Varchi, ci presenta come fedeli eredi del Bembo, ma che poi ad una lettura, diciamo, i loro testi si presentano invece appunto tutt'altro che petrarchisti ortodossi, eccetera. Tra l'altro, le recenti ricerche, ad esempio, del Galimberti sulla poesia di Celio Magno hanno messo giustamente in risalto la presenza di quelli che lui chiama elementi sapienziali, cioè elementi, diciamo, molto rossolanamente di contenuto ermetico, che si fa una tradizione ermetica presente nella sua poesia. Quindi questo mi sembra un elemento di un certo interesse. Il collegamento quindi iniziale del Badoer e del suo progetto con questo gruppo di letterati, che certo sono fortemente legati al Bembo, ma nello stesso tempo appunto sviluppano una ricerca espressiva diversa, naturalmente nel limite in cui la diversità va intesa sempre nella nostra tradizione poetica, in particolare cinquecentesca, e anche appunto hanno questo collegamento, diciamo, con contenuti di tipo filosofico e permessi. Ora, rispetto all'ipotesi del Tiraboschi, che è vera, diciamo, nei limiti che ricordavo, ecco, mi sembra che l'Accademia della Fama, rispetto a questo gruppo quindi iniziale, rappresenti qualcosa di qualitativamente diverso, perché nasce da un grosso impegno di tipo economico anche del Badoer, che è largamente testimoniato, e vuole avere, diciamo, una sua forte dimensione di tipo istituzionale. Grazie a questo vuole avere un forte peso nella vita veneziana contemporanea. Quindi appunto, e qui del resto diciamo come veniva, come era articolata internamente l'Accademia, già lo ricordava il professor Vasoli, adesso non mi ci fermo, ma se ricordate quello che lui diceva, ecco, vedete appunto come è attenta, come è forte l'attenzione appunto all'articolazione interna della vita, della struttura anche dell'Accademia. C'è una precisa distribuzione di compiti, e nel brevissimo periodo della vita iniziale l'Accademia raggiunge una dimensione anche quantitativamente piuttosto notevole, cioè circa un centinaio di membri, a ognuno dei quali era affidata una cattedra di lettura. Se poi vediamo, diciamo, l'elenco di questi accademici, vediamo che c'è una presenza sia di chierici e di laici, e qui dico subito in anticipo che l'enciclopedismo di cui già abbiamo parlato si riflette anche nell'attenta dosatura dei vari tipi, diciamo, di dell'Accademia. Per fare solo un esempio, tra i chierici si prevede espressamente la presenza, mi sembra, di tutti i membri, diciamo, di tutti gli ordini religiosi presenti in città e quindi anche delle diverse tendenze teologiche presenti in città. Questa proiezione all'esterno che l'Accademia si propone si sviluppa soprattutto attraverso due canali. Uno è quello su cui già ci siamo fermati, cioè quella dell'attività editoriale. L'altra è quello delle pubbliche letture che affiancavano una libreria aperta appunto al pubblico. Per quanto quanto riguarda quindi il primo aspetto, programma editoriale, anche qui sono già stati ricordati i due cataloghi, uno in volgare e l'altro in latino, che sono sostanzialmente l'uno la traduzione dell'altro, con piccolissime variazioni, che vengono pubblicati appunto il primo nel 58 e l'altro nel 59. Abbiamo già detto anche appunto che è un programma editoriale che, come già avevo osservato, il CIAN, da sempre molto attento a tutte le articolazioni della vita appunto letteraria veneziana, ha una forte dimensione enciclopedica, è un programma realizzato in minima parte e tuttora le edizioni appunto dell'Accademia Veneziana sono piccoli opuscoli molto rari, molto belli, che appunto sono rimasti di questo grandioso, l'unica cosa diciamo, che è rimasta di questo grandioso progetto. Ora, venendo diciamo all'analisi interna di questo catalogo, anche qui vi risparmio quello che appunto già è stato detto in questo seminario, mi sembra ecco, che anche dal dibattito sia uscita una valutazione diversa sulla importanza dei vari titoli che rimandano appunto alla matematica, alla scienza, eccetera, presente nel catalogo. Mi sembra ecco, che si possa senz'altro dire, cioè, mentre appunto su questo terreno, sull'importanza o novità di queste cose non sono in grado evidentemente di niente, però mi sembra ecco, di poter dire invece appunto che il catalogo si caratterizza anche per un grosso peso di testi ermetici e, anche questo è già stato detto, per il peso dei volgarizzamenti. Per quanto riguarda il primo aspetto, mi sembra interessante l'ipotesi di volgarizzamento, anche qui mi limito a segnalare cose già dette, del De Harmonia Mundi dello Zorzi. Fra l'altro questi personaggi sono ovviamente del resto legati ad alcuni di quelli che sono stati i protagonisti dei tentativi di riforma cattolica. E per quanto riguarda appunto questo forte impegno di volgarizzamenti, evidentemente siamo di fronte ha un impegno che ha una forte dimensione tecnica, cioè si insiste sempre molto anche nelle lettere, non so, del Molino, di altri, sull'ottima qualità tecnica della carta, della stampa, no? dell'Accademia, del resto appunto Paolo Manuzio diventerà lo stampatore ufficiale. Quindi ecco, siamo di fronte a quelle cose che soprattutto Dionisotti ci ha insegnato ad osservare, e che riguardano lo stretto intreccio, la complessa interazione, diciamo, tra la grande tradizione filologica, umanistica e rinascimentale, lo sviluppo dell'industria editoriale veneziana, lo sviluppo della letteratura della lingua in volgare, quindi anche con tutto il rapporto di domanda-offerta che queste realtà hanno rispetto appunto a un nuovo pubblico, un pubblico più largo, allo sviluppo di quello che Quandam ama chiamare alfabetizzazione, no? Processo di alfabetizzazione cinquecentesca. Quindi cose, ecco, da questo punto di vista, perché mi limito a ricordare queste cose? Perché da questo punto di vista mi sembra che il programma editoriale dell'Accademia manifesti la sensibilità a questi processi in atto, che del resto mi sembra sono già stati abbastanza analizzati. Accanto quindi a una attenzione per buone edizioni e traduzioni, diciamo, di testi esistenti, c'è anche un'apertura, un'attenzione per le opere nuove. Ad esempio nel 58 il Molin invita Bernardo Tasso a far stampare il suo Amadige appunto all'Accademia, impresa che non andrà in porto, ma che, perché appunto il Tasso era impegnato a fare della stampa di questo suo poema un grosso momento di lancio personale, ma che porterà poi il Tasso a diventare anche a via dei contatti, per cui poi appunto Bernardo Tasso diventa cancelliere dell'Accademia. Ora, ricordate molto brevemente queste cose, vorrei fermarmi un attimo su questo problema appunto dell'enciclopedismo che abbiamo detto essere alla base, ispirare questi progetti editoriali. Ecco, innanzitutto c'è una prima osservazione da fare. Cioè, questa struttura enciclopedica, diciamo, che ispira, magari certo in modo non nuovo, se vogliamo, i programmi editoriali dell'Accademia, è alla base poi della struttura stessa dell'Accademia, cioè una corrispondenza appunto, come adesso è già stato detto, nella articolazione dell'Accademia, nei vari consigli in cui l'Accademia è divisa. Secondo aspetto, Questo ordine enciclopedico, quindi che troviamo sia nel programma editoriale che nell'articolazione interna dell'Accademia, è espresso visivamente anche nelle stanze del palazzo, cioè appunto le varie classi corrispondono, anche questo è stato ricordato, alle varie stanze del palazzo, tanto che si chiamano addirittura classi o stanze del palazzo di Balduè, naturalmente. Un terzo elemento che volevo ricordare è questo, cioè questo enciclopedismo, nel modo insomma, in cui viene sentito, viene presentato dal Badoer e dai suoi amici, ha una dimensione precisa dal punto di vista filosofico, cioè cerca, diciamo, ha alle spalle delle suggestioni filosofiche ben precise, che si possono vedere, ad esempio, nel testamento che Badoer scrive nel 60, quando, dovendo partire per una missione, ha paura di non tornare, allora lascia questo testamento, in base a cui divide, diciamo, i suoi beni in modo che i suoi beni possano essere utilizzati per mantenere l'Accademia, per mantenere appunto le diverse articolazioni dell'Accademia. Allora scrive il Badoer a ciò che da loro e da altri, cioè da coloro cui lascia appunto questi beni vincolati alla prosecuzione del lavoro accademico, possa essere intesa e conseguentemente molto meglio favorita, evidentemente l'Accademia, voglio rappresentare qual sia il concetto mio e la forma che le ho data. Ho fondata essa Accademia alla similitudine del corpo umano, il quale è fatto alla similitudine di Dio. Conseguentemente ho giudicato non poter ricevere essa perfezione maggiore. E qui poi spiega, appunto, sviluppa, diciamo, questa immagine iniziale. Anche qui evidentemente niente di nuovo. Quello che è interessante appunto è l'utilizzazione di questa vecchia immagine del corpo umano come microcosmo, quindi il corpo umano come figura capace di garantire un ordine totalizzante proprio perché, come ricorda il Badoer, riprendendo temi evidentemente già largamente circolanti, il corpo umano è fatto similitudine di Dio, quindi appunto il corpo umano è in grado di contenere in sé, anzi di dare un ordine proprio alla totalità del reale. Tra l'altro, noi abbiamo letto Foucault, sappiamo appunto che Foucault giustamente individua in questo rapporto tra micro e macrocosmo l'analogia finale, cioè diciamo il punto con cui il sistema della gnoseologia cinquecentesca si chiude. Chiude il gioco, se no tendenzialmente illimitato, indeterminato appunto delle analogie. Ricordavo questo per sottolineare appunto questa dimensione unificante, totalizzante, diciamo, che ha questo tema ripreso appunto in questo contesto. Ora, questa idea appunto, no, che ricordavo ora è presente ad esempio anche in Paolo Manuzio, in un'articolazione mi sembra vicina a quella del Badoer. Cioè Paolo Manuzio che, come già ho ricordato, come poi dirò anche in seguito, non solo è lo stampatore ufficiale dell'Accademia, ma è proprio uno dei fondatori, diciamo, del progetto dell'Accademia. In un suo discorso pubblicato nel 60, intorno alle cinque parti dell'oratore, sottolinea l'importanza della disposizione. Cioè, voi sapete, nella classificazione retorica classica, la disposizio è la seconda parte, diciamo, no, della retorica, che viene dopo appunto l'invenzio. E è interessante la lettura della disposizio in tema proprio di ordine, ma con tutte le suggestioni e retoriche, ma non solo retoriche, mi sembra, che questo tema dell'ordine ha. Infatti, egli dice: che l'uomo adunque naturalmente ami l'ordine non è maraviglia, perciò che egli è ordine e amando l'ordine ama la somiglianza di se stesso. E che l'uomo sia ordine, meno questo è maraviglia, avendolo formato non maestro confuso, ma tanto ordinato che da lui come da prima idea tutti gli ordini derivano. Dio creò l'uomo siccome creò il mondo e siccome prima il mondo con maravigliosa temperatura creò, così da poi, osservando il medesimo ordine, creò l'uomo, a ciò che l'uomo al mondo e il mondo all'uomo si rassomigliasse e l'uomo e l'altro rassomigliassero a lui. Ora, questa citazione appunto di Manuzio mi serviva cioè mi può servire appunto per far vedere come questo tema appunto dell'ordine, che qui è in un contesto retorico, appunto abbia anche una dimensione di tipo metafisico. Certo, una metafisica appunto che si rifà alla tradizione soprattutto neoplatonica. Tra l'altro, sempre ritroviamo questi temi in personaggi, in opere, diciamo, che escono in questi stessi anni, di personaggi o che fanno parte dell'Accademia o che sono molto vicini all'Accademia. Mi limito a ricordare molto brevemente che, ad esempio, sempre nel 60 esce il commento di Francesco Patrizzi alle rime del Contile, che come già abbiamo detto era uno appunto degli accademici, in cui, a mio parere, abbiamo appunto alcune aperture interessanti su quella che sarà poi la ricerca retorica e poetica del Patrizzi. Perché c'è l'idea, ecco, che al di là della crisi in cui la retorica e la poetica contemporanea si ritrovano, è possibile rifondare la poetica partendo da due presupposti. Uno appunto di tipo metafisico, nel senso che la struttura del testo, la struttura del linguaggio umano riprodurrebbe la struttura del procedimento creativo di Dio. L'altro appunto di tipo più propriamente tecnico, retorico, cioè è possibile rifondare una poetica che tenga conto delle ricerche, ad esempio, di Agricola o di Camillo, appunto, sulla retorica. E è interessante il fatto che il Patrizio si sia interessato soprattutto all'ampliamento della topica, appunto, che questa tradizione ha attuato. Comunque, ecco, al di là di queste cose, mi sembra interessante vedere che anche qui, appunto, siamo di fronte a questo nesso, diciamo, tra un possibile riordinamento dell'esperienza linguistica nei suoi punti più alti, retorica e poetica, no? E dimensione metafisica di tipo totalizzante. E elementi analoghi ritroveremo 2 anni dopo, nel nono dialogo della retorica, sempre del Patrizzi. Inoltre, appunto, come è già stato ricordato, nel 60 il Patrizzi pubblica il secondo tomo delle opere di Camillo, dove ritroviamo alcuni testi fondamentali indirizzati ad alcuni personaggi del Circolo del Bembo o appunto ad alcuni personaggi come Marcantonio e Flaminio, che sappiamo ha avuto un posto non trascurabile anche nella storia religiosa di questo periodo. Quindi ecco, quale tipo di enciclopedismo, diciamo, nutre i programmi dell'Accademia? Abbiamo visto un enciclopedismo tutt'altro che insensibile a suggestioni filosofiche, a suggestioni metafisiche, dove appunto a quello che a me interessa è mettere in risalto questo intreccio, diciamo, tra retorica e metafisica, questa idea che è possibile ricostruire l'ordine delle parole, l'ordine del dicibile, perché questo ordine corrisponde all'ordine delle cose, all'ordine quindi del conoscibile, no? Di qui l'intreccio appunto tra un riordinamento universale delle scienze, quindi anche sia della letteratura che appunto delle arti, eccetera, che l'Accademia tenta. D'altra parte, mi interessa vedere anche come dentro il circolo del Bembo quindi si stia sviluppando un classicismo, ad esempio anche Paolo Manuzio e Ciceroniano, che però è più complesso, ha più tensioni, cioè, diciamo, interne di quanto tradizionalmente si pensi. E da un punto di vista letterario, appunto, mi sembra interessante che, ad esempio, il Camillo sia uno dei lettori cari ai manieristi, cioè, cosa che non si spiegherebbe se non si tenesse presente appunto questa complessità di elementi compresenti appunto nel quello che tradizionalmente si chiamano tendenze classiciste. Ora, l'ultimo elemento che ricordavo prima, cioè il fatto appunto che l'ordine dell'Accademia sia visibile, no? Il tanto che sia proiettato nelle stanze del palazzo, tanto che riprendendo un altro tema che nella discussione di questi giorni è largamente circolato, il tema della teatralizzazione, possiamo dire che in questo modo le diverse stanze del palazzo diventano appunto la scena, no? Cioè il palazzo diventa il teatro, diciamo, della vita dell'Accademia. Vorrei aggiungere subito, però, che proprio per le cose che dicevo mi sembra che non ci sia solo l'apparenza. Certo, c'è una visualizzazione, ma la visualizzazione di un ordine che si cerca con più o meno convinzione, vabbè, su questo potremmo a lungo discutere, di riportare addirittura a dei fondamenti metafisici. Cioè, è un un ordine dei verba dietro cui però si cerca sempre di far intravedere l'ordine delle resse. È chiaro qui il riferimento, giustamente anche Vasoli faceva, al teatro di Camillo come tipo di operazioni. E tra l'altro mi sembra interessante il fatto che questo enciclopedismo, diciamo, che si affida ad un sistema di immagini, è qualcosa che percorre tutta la cultura del secolo, no? Che ad esempio è alla base del rapporto che si viene spesso ad instaurare tra l'ordine delle collezioni nelle Wunderkammer e la decorazione iconografica che accompagna, sottolinea, rende visibile e allo stesso tempo nasconde l'ordine della collezione. E qui evidentemente rimando al bel catalogo curato da vari autori, tra cui il nostro Beppe Olmi per la mostra a Mantova di qualche anno fa, così come mi sembra che elementi analoghi si possano vedere per un testo, così che mi sono divertita a studiare, che è l'invenzione di Vincenzo Bolvini per lo studiolo di Francesco I. Ecco, quindi, questo per dire così molto brevemente il tipo di enciclopedismo che mi sembra appunto sia alla base dei progetti dell'Accademia e le suggestioni di tipo culturale che ne derivano, suggestioni vecchie ma anche in parte proiettate verso il futuro. Quindi diciamo, siamo di fronte, ecco, ad un elemento che mi sembra interessante, perché su un asse, che direi Venezia-Firenze, in questo periodo proprio siamo di fronte non tanto ad un rinnovamento di schemi, ma certo ad una riutilizzazione, ad una disgregazione anche per certi aspetti di schemi culturali. Il secondo elemento che ricordavo prima, cioè il secondo elemento diciamo di proiezione verso l'esterno dell'Accademia accanto quindi all'attività editoriale, è le lezioni pubbliche. Lezioni pubbliche che vengono molto curate, cioè ad esempio nelle lettere di Bernardo Tasso, così come nelle lettere del Contile, abbiamo larghe testimonianze della cura anche dell'immagine pubblica di questa Accademia. Fin dall'inizio, quando il Molin cerca di attirare Bernardo Tasso nell'Accademia, gli dice: abbiamo preso in affitto la più bella bottega che ci sia. Cioè, si cura molto appunto anche l'immagine pubblica, no, dell'Accademia. E così troviamo sottolineata nelle lettere, appunto soprattutto cioè del Contile e del Tasso, la qualità e la quantità del pubblico che partecipa a queste lezioni. Questa politica di lezioni, per cui appunto l'attività accademica, oltre che con il libro, no, appunto si proietta all'esterno, si accompagna soprattutto nei primi anni, in cui poi sostanzialmente si concentra l'attività dell'Accademia, si accompagna ad una ricerca molto attenta, molto calibrata di consensi all'interno, cioè nell'interno diciamo, dell'Italia e anche fortemente all'esterno. Quindi ad esempio qui è interessante, utilizzando il Renoir, vedere tutte le varie dediche, no? E si può vedere appunto come c'è quello stesso concordismo che abbiamo visto appunto sia a livello di programmi editoriali sia quando ricordavo che insomma c'erano tutte, no, le varie scuole, diciamo, si cercava di conglobare unitariamente quindi le diverse tendenze. Quindi ecco, le scarse realizzazioni editoriali dei primi anni sono indirizzate soprattutto a questo, direi, soprattutto quindi a far vedere che l'Accademia produce e produce appunto cercando di tessere intorno a sé una rete di consensi e di appoggio a livello italiano ed europeo. Ora, come già dicevo all'inizio, quello che mi sembra interessante è che su questa base, cioè sulla base e dell'identità culturale che l'Accademia cerca di costruirsi con elementi che ricordavo molto brevemente, e con questa attività, l'apertura della libreria, un'attività appunto di lezioni pubbliche, su questa base l'Accademia cerca di stabilire dei rapporti organici con lo Stato veneziano. Dirò subito che in parte ci riesce, anche se questo, a mio parere, ma qui evidentemente chi conosce meglio la storia veneziana di me potrà dare altri elementi oppure elementi contrari, è un tentativo che è abbastanza estraneo alla tradizione, diciamo, del rapporto tra politica e cultura nello Stato veneziano. Cioè, in fondo, mi sembra che accanto ai due poli, diciamo, governo della Repubblica, Università di Padova, ci sia un tentativo da parte di questi accademici di costituirsi, oggi diremmo, come una specie di ministero, se non della pubblica istruzione, della cultura, diciamo, collegato col governo veneziano, quindi come un terzo, come diciamo un terzo polo, strettamente legato al potere politico. Qui vorrei dire alcune cose. Dunque, innanzitutto, diciamo, su quali basi cercano questo riconoscimento? C'è una forte sottolineatura dell'utilità che le lezioni dell'Accademia possono avere per i nobili veneziani. E qui evidentemente c'è una ripresa del fatto che, a differenza di quanto succede, diciamo, in altri stati, i nobili veneziani partecipano direttamente alla vita politica. Inoltre, e qui il sempre lodato Mainländer ce lo ricorda in modo piuttosto articolato, l'Accademia fa una serie di offerte di, evidentemente di diversa qualità, ma complessivamente indicativi del progetto che dicevo. Cioè offre appunto alla Repubblica di ristampare le leggi, di ordinarle in quattro parti, di rivedere tutte le storie patrie, di descrivere la forma dei consigli dei magistrati e l'origine delle procuratie, di rendere conto degli istituti, dell'organizzazione delle 6 scuole pubbliche, di pubblicare un libro delle cerimonie usate dal Doge nelle sacre solennità e nelle altre occasioni di pace e di guerra, e ciò per facilitare e rendere più dignitoso il compito dei magistrati. Quindi appunto un collegamento molto preciso, di ordinare e ingrandire la pubblica biblioteca, di destinare alcuni accademici al servizio dei principi e forestieri che desiderassero di visitare la città. Tra l'altro qui si andava contro il divieto che invece c'era appunto dei patrizi veneziani di frequentare, di avere stretti rapporti personali, diciamo anche con stranieri eventualmente residenti in Venezia. Di incaricarsi dell'approvazione dei correttori delle stampe di tutte le stamperie, di avere quindi appunto una specie di controllo su tutta l'attività editoriale, di istruire i giovani che si esercitano nella cancelleria, eccetera. Quindi ecco, siamo di fronte ad una serie di offerte che mi sembrano andare nella direzione che dicevo. Ora, come risponde il governo veneziano a queste offerte? Risponde in parte, ma no, risponde in parte in modo positivo. Ad esempio, nel 59 il Doge Priuli accetta la dedica della somma, appunto, del catalogo, no, dell'Accademia. Nel 60, con una giustificazione di tipo tecnico, cioè sono molto belle sia la carta che i caratteri, diciamo, della stamperia dell'Accademia. L'Accademia ottiene il privilegio di stampa per tutti gli atti ufficiali della Repubblica. Nello stesso anno, inoltre, viene permesso, diciamo, all'Accademia di tenere le proprie riunioni non più in una sede privata, anche se prestigiosa, quale quella appunto di Palazzo Badoer, ma nel vestibolo della Biblioteca Marciana, che fra l'altro, e qui faccio una breve parentesi, come ha fatto vedere Ivanov, all'inizio era la sala dei lettori, cioè era una sala per tenere delle conferenze. Volevo dire molto brevemente che sia per le cose che ricordavo prima, sia per questo, mi sembra che dovremmo tenere presente, se volessimo appunto ricostruire organicamente così le vicende delle nostre accademie, oltre alle cose che già si sono ricordate, proprio questo rapporto delle accademie con le biblioteche. No? Ad esempio, il problema di ordinamento delle biblioteche evidentemente è un problema, così come nelle collezioni, dicevo prima, in cui si riflette il problema, diciamo, di riorganizzazione del sapere, e quindi anche con il problema dei musei. Tanto è vero che, ad esempio, negli elogi, no, di alcuni uomini dotti di questo periodo, l'elenco dei libri e dei manoscritti che uno possedeva è immediatamente seguito, no, dall'elenco degli oggetti, eccetera, del suo museo. Dicevo questo perché accanto alla coppia, diciamo, concettuale oralità-scrittura che si ricordava ieri, mi sembra si debba aggiungere anche una dimensione, diciamo, di oggettualità o almeno di visualità, se vogliamo, diciamo, cercare delle categorie unificanti. Quindi, ecco, per un periodo breve, ma insomma abbastanza significativo, che comprende sostanzialmente 2 anni, 59 e 60, quindi l'Accademia ottiene una serie di risposte in positivo, direi, a queste sue a queste sue profete. Per ricordare così molto schematicamente alcuni altri elementi, vorrei ricordare che nell'Accademia Bernardo Tasso recita il suo ragionamento della poesia, che è un testo curioso, a mio parere, in cui in una chiave così quasi da provvidenzialismo letterario, le dispute che scoppieranno di lì a poco sulla poetica aristotelica vengono come preventivamente, così, diciamo, prevenute. No, perché si ricostruisce una linea dello sviluppo delle discussioni sulla poesia nel nostro paese che vede come punti centrali, da un lato Bembo, no, dall'altro appunto la poetica di Aristotele. Cioè, anche qui in fondo c'è quella linea unitaria, concordistica, diciamo, che Bernardo Tasso cerca di salvaguardare. Così come sarebbe di un certo interesse verificare se è vero quello che dice il Taddeo, che cioè anche la prefazione sopra il Petrarca di Cilio Mani è stata recitata nell'Accademia. Inoltre, un altro elemento che volevo ricordare è questo, cioè sia pure per un breve periodo e col fallimento che ne segue, l'Accademia sembra garantire una collocazione professionale, cioè modelli intellettuali abbastanza diversa, ecco, da quella tradizionale, appunto, che fa riferimento o alla corte o alla chiesa. Se guardiamo le lettere che Paolo Manuzio scrive al Badoer anche prima del 57, vediamo che c'è una richiesta precisa. Cioè, evidentemente, ma il Manuzio non era più in grado di gestire autonomamente la propria impresa editoriale e chiede delle garanzie per restare a Venezia. Cioè, chiede praticamente al Badoer di garantirlo fino al suo ritorno. Appunto, il Badoer, ricordavo prima, era in Spagna in questi anni, cioè per un'ambasceria, e infatti quando poi Badoer torna, Paolo Manuzio, ricordavo prima, diventa lo stampatore ufficiale dell'Accademia, nel testamento il Badoer si preoccupa di lasciare una serie di proprietà che aveva in Istria per garantire il funzionamento economico. Quindi evidentemente, ecco, siamo di fronte ad un'attività editoriale, in questo caso appunto quella di Manuzio, non autosufficiente, che ha bisogno per continuare quindi della protezione e politica, ma soprattutto anche direi economica, del Badoer. E un altro elemento interessante è questo: ricordavo già prima che il Tasso, Bernardo, è cancelliere dell'Accademia e l'Accademia gli fa un contratto di lavoro. Cioè, non solo gli dà delle garanzie per il figlio, dice noi penseremo al figlio anche se non vorrà far parte dell'Accademia, ma, e questo mi sembra curioso, cioè interessante, ha uno stipendio che è di 200 ducati annui. E come, ad esempio, ho visto dalle lettere di Paolo Manuzio, è lo stesso stipendio che la Repubblica dava ai maestri delle scuole pubbliche dei sestrieri. Giustamente si potrà obiettare, ma quanto, insomma, che il Bernardo Tasso, che esalta questa sua esperienza nei termini tradizionali dei cortigiani che sono stanchi della corte, anche se poi ci tornano, dicendo finalmente ho ritrovato la mia libertà, eccetera. E che in realtà poi questa esperienza dura molto poco, il Tasso addirittura cambia casa per non abitare più vicino al Badoè. Voglio dire, si tratta evidentemente di un'esperienza molto, molto limitata, che però, ecco, fa vedere come si sentiva l'esigenza, in parte si cerca di realizzare anche appunto un tipo di collocazione diversa dal binomio appunto chiesa-corte, anche se è di breve durata. E qui vorrei ricordare ad esempio un recente articolo di Quondam che analizzando l'attività editoriale di Marcolin, uscito appunto sul Giornale Storico della Letteratura Italiana, faceva vedere come sostanzialmente in questi anni, diciamo, si vada dimostrando l'impossibilità o la scarsa percorribilità, diciamo, di quello che si chiama una terza via, no? Appunto una terza via rispetto alla corte o alla chiesa. Quindi anche da questo punto di vista mi sembra appunto che l'Accademia, diciamo, esprima delle possibilità che poi si chiudono, recepisca appunto delle tendenze, delle nuove possibilità, anche se poi queste si manifestano scarsamente, realizzabili. E qui, vorrei, diciamo, concludere con una breve informazione intanto sul modo in cui l'Accademia va a finire male. Cioè l'Accademia, diciamo, viene chiusa nel 61 e questo ha suscitato lungamente nella storiografia le spiegazioni più diverse, anche più fantasiose, diciamo, sul perché appunto vada a finire così male rapidamente. Ora ci sono alcuni motivi economici. Cioè, ci sono alcuni migliaia di ducati di debiti che Badoer aveva fatto all'estero. Per cui nell'agosto del 61 viene imprigionato, l'Accademia è chiusa, non solo, ma con una censura talmente forte anche contro il nome dell'Accademia stessa, che non viene nominato da Sansovino nell'opera appunto sulle descrizioni di Venezia, che esce lo stesso anno. Come ha dimostrato poi lo Stella nella voce Badoer per il dizionario biografico, in realtà poi un nuovo processo che Badoer subisce 7 anni dopo, nel 68, getta una nuova luce anche, diciamo, sulle ragioni per cui era stato incarcerato nel 61. Cioè ragioni che non sono solo di tipo economico, ma anche di tipo politico. Cioè si dice che si sapeva che già l'altra volta il Badoer era stato condannato per quel che aveva fatto con Alemanni. Cioè, evidentemente c'erano delle preoccupazioni per questi collegamenti col mondo germanico abbastanza stretti che il Badoer aveva tenuto. Ora nel 70 poi il Badoer viene assolto, nell'82 guida la rivolta dei giovani contro lo strapotere della giunta, e questo fra l'altro con una differenziazione, diciamo, rispetto a quello che si poteva pensare sarebbe stata la collocazione tradizionale della sua famiglia in questa vicenda, anche se così, anche qui siamo di fronte a una breve meteora, ha un grande successo col discorso che pronuncia, evidentemente aveva imparato bene la retorica, ma poi brevemente diventano, cioè, la sua effettiva influenza politica è molto breve, sono altri che poi gestiscono lo sviluppo degli eventi. Vi ricordavo brevemente appunto questa rapida e infelice, diciamo, conclusione di questa esperienza dell'Accademia Veneziana, perché l'Accademia Veneziana seconda, verso fine secolo, come già ricordava il professor Vasoli, è sostanzialmente un'altra cosa, per riproporre la questione a cui accennavo all'inizio. Evidentemente siamo di fronte ad una sconfitta, siamo di fronte quindi a qualcosa che finisce rapidamente e male, e quindi possiamo interrogarci sulle ragioni di questa sconfitta, dopo che ho cercato di mettere in risalto a quali suggestioni culturali e sociali, diciamo, questa accademia cercava di rispondere. E qui il Benzoni, nel suo libro, che già abbiamo più volte ricordato in questi giorni, così, mette in risalto la megalomania del progetto. Nello stesso tempo, appunto, dice che questa accademia, in fondo, no, questa sintesi di vita contemplativa e attiva, eccetera, rappresentava la proiezione di un era una specie di repubblica ideale degli umanisti, no? La realizzazione, diciamo, di un vecchio sogno. Ma appunto un sogno vecchio, megalomane, che crolla. E su questo, insomma, diciamo, sono d'accordo, cioè evidentemente si tratta di un progetto che va largamente al di là di quelle che erano le effettive disponibilità economiche, l'effettiva forza politica poi del Badoer, anche se per un po' sembra che funzioni, quindi voglio dire, a qualche domanda evidentemente rispondeva. L'altro elemento a cui già accennavo è appunto questo, cioè questo tentativo dell'Accademia, diciamo, di avere un ruolo istituzionalizzato, riconosciuto, fortemente collegato col governo della Repubblica nella vita veneziana. Ora, ad esempio, la biografia di Bembo, qua la ricostruita Dionisotti, ma non solo lui, ci dimostra come fosse estraneo proprio alla tradizione. Facciamo una pausa e poi si ritorna con Baccagni. Eine kleine Frage zu den Membri, zu den Mitgliedern. Habe ich es richtig verstanden, dass Sie sagten, unter den Mitgliedern der Akademie waren vertreten tutti ordini religiosi? Das ist ein sehr interessanter Punkt. Kann man etwas sagen über die ungefähre Zahl der Mitglieder? Numero, Numero. Questo proprio il numero dei membri. 100, ah, 100 circa Mitglieder. 100. Nel momento di massima, poi in realtà coincide. Per favore, chiediamo scusa. Siamo Vasoli. Vasoli dal professor Dickerhoff. Vasoli. Dunque, sì, mi è piaciuto molto la relazione. Certo. Volevo solo un punto chiarire che mi pare. Direi che accanto a questa tradizione neoplatonica, che certamente è molto forte, c'è, secondo me, la presenza della quella linea Melantone-Struma, perché tanto Celio Maggio è un ramista, chiaramente, perché i suoi alberi per l'edizione di Rodolfo Albicola sono ramisti, quindi c'è il ramismo di Celio Maggio. Probabilmente c'è anche l'influenza ramista che mi sembrano ormai dimostrabili abbastanza bene solo stesso dall'inizio. Quindi anche l'idea dell'enciclopedia probabilmente viene anche da questo filone ramista, sturmiano ramista, che aveva poi influenzato, io sono convinto, anche lo stesso Giulio Camillo, che era stato amico di Sturm a Parigi, e d'altra parte dico, operette del circolo di Giulio Camillo sono operette molto spesso che dicono proprio lo sturmiano, che ricordano fortemente Sturm. Quindi ci deve essere anche questo dietro l'idea dell'enciclopedia. La frase, la famosa frase, la frase di Manuzio citata, ricorda in maniera estrema la frase di Melantoni, proprio nella retorica di Melantoni. Ed è una frase, questa sull'ordine che è tutto, insomma, che poi prosegue molto, arriva a finire perfino in com'è? Nella didattica magna, Comenio ripete poi quasi le stesse frasi. Che l'ordine è essenziale in tutto, in ogni cosa, in ogni. Ed è poi naturalmente un tema legato strettamente alla discussione sulla metodus, perché il termine ordo, via, metodus sono intercambiabili. Quindi c'è già dietro l'idea dell'ordinamento del sapere, della strutturazione del sapere. E quindi mi pare che proprio in fondo ci sia questa idea, anche questa tradizione enciclopedica che viene di fuori, in fondo, viene dalla cultura franco-tedesca in qualche modo, attraverso proprio da quella storia della dialettica, della retorica attraverso appunto Agricola, poi Sturm, Antone, Rano, insomma, e che in questi presenti, ed è presente credo anche con delle influenze che sono a mio parere anche religiose, per certi aspetti, perché in fondo lo stesso poi succede in Castelvetra, no? Succede in Castelvetra. Passa attraverso queste, e quindi questo che penso che possa aver influito anche su questa idea della disposizione. L'idea della disposizione del sapere universale, l'idea di una raccolta e riorganizzazione del sapere. Certo, quello è importante. Quello è importante. Poi è singolare che per molti dei testi, anche scientifici, sono quelli che interessavano per esempio i circoli ramisti, per esempio c'è Euclide fortemente, c'è il Galeno, c'è tutti i testi che in fondo erano portati al centro di questa discussione. Un altro punto, ecco, la questione messa del teatro, è molto giusto quello che ha detto, completamente d'accordo, il teatro ha un doppio senso, insomma c'è del teatro spettacolare, c'è il teatro come luogo della memoria, proprio come la fortissima associazione sempre che c'è tra il luogo visuale e quindi la topica proprio, e il teatro, che non solo nel teatro di Camillo, ma c'è anche prima, insomma anche nei trattati di addirittura di arte della memoria quattrocentesca, i luoghi sono o il teatro o la chiesa di solito a cui si associano proprio le immagini, c'è anche questa connessione topica. Quando poi il tentativo di creare una scuola vera e propria, ci sono dei precedenti veneziani famosi, il tentativo che era stato fatto già nel 400 di trasformare la scuola di Rialto nella sua università, poi respinto, però anche allora respinto dal che non doveva desiderare le scuole Professor Dickerhoff. Ich habe eine die Rede von der Einteilung in Klassen und in die einer sichtbaren Saaleinteilung entspricht, interessiert mich natürlich aus dem Aspekt der Akademiegeschichte in Deutschland und ihrer Klasseneinteilung sehr stark, zumal ja auch diese Ordo- und Mikrokosmos-Idee in der mittleren Tradition auch immer wieder eine Wissenschaftssystematik enthält. Es hätte nun die zusätzliche Informationsfrage, welche Klassen werden da dargestellt, welche Symbole, welche Wissenschaftsbereiche werden anhand des Bildprogramms der Seele sinnfällig sichtbar gemacht werden. Ja, die Sinnfälligkeit als eigenen Bestandteil der Akademiearbeit hingewiesen. Welche Wissenschaften sind da aus dem Programm der Lektioni, also im Grunde Philologisches, aus dem Staatenprogramm Antiquarisch-Historisches herausgelesen? Welche weiteren Disziplinen werden hier zugelassen und repräsentiert? La domanda era che lo aveva molto interessato la divisione in classi e in sale. Chiedeva quale era in concreto la divisione, quali simboli che corrispondevano alle diverse attività o scienze e anche rispetto alle lezioni, alle Vorlesungen, se si poteva analizzare quali erano di argomento filologico o comunque antiquario o di interesse, diciamo così, etico-politico. No, non so se, perché c'era adesso ancora Benzoni che aveva chiesto, poi la risposta può venire. Alcune poi professore. Brevissime aggiunte, osservazioni, bemerco alla relazione della signorina Bolzoni. Così mi viene in mente che a proposito di questo ampio raggio con cui si propone l'Accademia, che Apostolo Zeno, che è da tenere presente perché è un animale accademico poi a sua volta, l'ha definito impresa di principe grande. Ed è da dire che il termine principe grande la Repubblica suole darsi da se stessa quando ha problemi di precedenza con gli ambasciatori, dice guarda, insistere che la Repubblica è principe grande, vale a dire senza nessuna ombra di limitazione di sovranità risalente all'epoca feudale, quindi né da parte della Chiesa né da parte dell'impero. Vale a dire il respiro dell'Accademia, osserva Zeno, è un respiro che solo lo Stato può avere. Io sono grato Bolzoni così per aver insistito sul fatto che questa Accademia nello stesso tempo si propone addirittura come surrogatoria rispetto allo Stato, cioè fornitrice di servizi che lo Stato non dà. Deve essere l'influenza dell'Accademia Fiorentina. No? Cioè, e qui salta fuori allora anche il problema, diciamo, se la Repubblica di Venezia vuole avere o ha una politica culturale. Direi che è vero quanto dice la signorina Bolzoni che al patrizio non si chiede di essere letterato, anzi deve assaggiare le scienze ma finalizzarle alla politica, scienze e lettere. Però c'è un momento in cui il patrizio dovrebbe essere letterato nel senso di intellettuale, vuol dire colui che crea la memoria della Repubblica, vuol dire l'episodio della pubblica storiografia. Cioè, che fra l'altro come impresa collettiva è fallimentare, nel senso che non riesce, va avanti da Sabellico, vabbè, Sabellico è stato recuperato, cioè, ha fatto la sua opera, cioè, è stata inglobata, certo. Ma va avanti sino al 700 avanzato e in realtà l'unica vera storia della Repubblica è la storia della letteratura veneziana di Marco Foscarini. Cioè nell'atto stesso in cui una classe dirigente si propone come soggetto collettivo di scrittura della propria storia, salta fuori la spazzatura. Non riesce neanche a saldarla cronologicamente, perché ognuno sente il bisogno di riscrivere il pezzo già fatto dal precedente. E il migliore storico della pubblica storiografia è, non a caso inedito, ed è Niccolò Contarini. Proprio perché la Repubblica capisce che a un certo punto non si può riconoscere una voce così al limite di parte. Direi che c'è qualcosa di tragico in questa impossibilità che la Repubblica ha di una politica culturale che esprima la classe dirigente come soggetto collettivo. Perché nel lato stesso in cui tenta una politica culturale emerge la spaccatura, emerge l'inclinatura. E un'altra cosa deve aver irritato lo Badoer, in un'epoca ancora ambigua in cui la spaccatura tra vecchi e giovani non è emersa del tutto e comunque all'ingrosso sono i nunzi che cominciano a chiamarli i buoni e i cattivi, diremo è la Bisogna vedere cosa... è una spaccatura che esiste nello stesso in cui i nunzi se ne accorgono e introducono determinate distinzioni il cui parametro è costituito dall'atteggiamento nei confronti di Roma, più o meno duro, più o meno cedevole. Un'ultima cosa, così, il filone neoplatonico è indicativo che sia un filone reperibile anche nelle operette dei giovani patrizi veneziani reduci magari da Padova, e lì un grosso gioco a Piccolomini, ecco, che pare sia poi il vero autore di determinate cose, no? E, in cui evidentemente erano scontenti di, diremo, della persistenza aristotelica e semmai tentavano delle simbiosi, ma una di queste operette tra le più significative che aveva studiato Alberto Tenenti ed è De Perfectione Rerum di Niccolò Contarini, quel pubblico storiografo futuro e futuro d'oggi anche, di cui c'era per me. Professor Rapp, ich wollte eigentlich zunächst eine Frage stellen. Zwar hatten Sie einmal angedeutet, dass innerhalb dieser Akademie Verbindungen zur Gegenreformation bestehen. Was ja ein sehr interessanter Punkt eigentlich ist, der ja nun wiederum Schlaglichter werfen könnte auf das rasche Ende der Akademie, das Sie ja auch in Zusammenhang gebracht haben mit Beziehungen von Baduel nach Deutschland. Habe ich hier eine Gedankenbrücke richtig geschlagen oder ist das falsch gesehen? Das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist eigentlich eine kleine Bemerkung, eine Ergänzung zu dem, was Sie gesagt haben, aus deutscher Sicht noch. Sie sprachen davon, dass in diesem Kreis um Bembo versucht wird, aus einer neuen Organisation, dem Versuch einer Umstrukturierung der Linguistik, eine neue Ordnung der Worte zu finden und daraus eine Ordnung der Dinge abzuleiten. Ich wollte nur daran erinnern, dass kurz nachdem in Deutschland die ersten Wörterbücher erscheinen, also zu Beginn des 17. Jahrhunderts, auch versucht wird, hier, und zwar ist mir das einmal die Hände gefallen durch der Schrift eines Reichspublizisten, Christoph Besold, versucht wird durch linguistische Ansätze, indem er etwa Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Deutsch und Italienisch hier untersucht, auch Ableitungen zu ziehen zu Unterschieden zwischen dem Charakter dieser beiden Völker und hier eigentlich einen aus heutiger Sicht vielleicht problematischen, aber aus der damaligen Sicht doch sehr interessanten Ansatz, einen empirischen Ansatz versucht, über die Sprachkritik, über die Sprachordnung weitere Erkenntnisse über die Welt zu sammeln. Und das ist ja eigentlich auch hier irgendwie interessiert. Le due domande erano, a proposito dell'accenno ai rapporti con la riforma e specificamente il rapporto di Baudelaire replicato con la Germania, anche poi sino alla sua operazione in Spagna. Secondo, a proposito della correlazione verbum res e realtà, l'osservazione che al principio del Seicento, da parte tedesca, ci sono una serie di osservazioni per ricavare dalla disposizione e in fondo proprio dall'ordine delle due lingue anche una serie di osservazioni di natura antropologica sui parlanti e sulle loro comunità. E io volevo aggiungere anch'io una, ma no, senza ampliare troppo il discorso. Mi scusa, ho sbagliato, non Germania, Spagna. Ah, Spagna. Spagna. Ah sì, io ho capito Germania. No. C'è prima un rapporto, aveva segnalato, poi quando nella sua ambasciata in Spagna c'era stato un problema di rapporti con il mondo germanico che non guardavano alla Serenissima. Io volevo fare una brevissima domanda, ma solo per non volendo andare troppo avanti. Quando noi parliamo di ermetismo e neoplatonismo, teniamo conto anche del fatto che c'è una rifioritura evidente imposta anche dal mondo riformato della patristica e quindi una riimmersione attraverso i patres di tutta una tradizione che essi per certi versi avevano inglobato. Quindi c'è una specie di concordanza a questo punto. Il caso di Celio Magno potrebbe un poco anche portare in quella direzione, tenuto conto che alla fine del secolo Tasso scriverà Il mondo creato proprio come il momento più alto di questo tentativo di recuperare tutta la tradizione tipicamente patristica, anche se con qualche appendice medievale della settimana archetipica del mondo e tutta la letteratura che gli corrisponde. Ma lì è tipico il libro di Francesco Giorgio Veneto, Ponto, dove c'è una larghissima utilizzazione dei padri, certo, e poi c'è l'utilizzazione di Origene massiccia. Certo. E tutto, poi continua lungo tutto il Seicento. Certi libri del Bartoli sono curiosi, certi libri del Bartoli saranno curiose contaminazioni di scienza moderna con le sue nuove osservazioni e di topoi patristici, per cui il fiore sarà ripreso da Agostino e nello stesso tempo comporterà l'analisi al microscopio, ma questo è già un secolo. Ich hätte noch eine ergänzende, fortführende Frage zu dem, was Herr Benzoni gesagt hat. Sie haben ja hingewiesen auf die Ziele eigentlich der Regierung und ihre geistige Auswirkung, nämlich das Ziel, eine Politica Culturale zu schaffen. Auch um die Memoria della Repubblica zu bewahren. Und Sie wiesen darauf hin, dass das eigentlich eine Tradition sei. Nur eine Bemerkung, es ist ganz generell, auch für den deutschen Raum, doch recht merkwürdig, dass zwar ein großes Interesse seitens der Fürsten besteht an der Verherrlichung des Fürsten und an der Förderung einer politischen Kultur. Auf der anderen Seite in den Akademien die Jurisprudenz und die Rezeption des römischen Rechtes, die ja voll im Gange ist in dieser Zeit, keine Rolle spielt. Und da generell die Frage, ob Jurisprudenz, Rechtsrezeption in den italienischen Akademien auch keinen Boden findet und wo die Gründe liegen. Ja. Era il rapporto ai fini della politica veneziana, preso atto di quello che aveva osservato anche Benzoni, si chiedeva in rapporto al mondo tedesco a proposito dell'interesse dei principi per l'educazione, in fondo, della stessa classe principesca per la promozione di una certa politica culturale, se come mai non sembra mai emergere dentro il mondo accademico l'interesse per il diritto, i problemi del diritto, tenuto conto che siamo in un momento di fioritura del diritto romano. Posso dire una cosa così? L'interesse, non so se questo, quello che mi viene in mente è Bernardino Partenio, no? Sì. Quello di Trissino, sì. No? Che ha fatto anche lui un'accademia, era, se non mi sbaglio, ha costituito a Trudine un'accademia dedicata agli Instituta Iuris, sì. Cioè c'è ogni tanto affiora un interesse per il versante giuridico. Più tardi, nel 600 ci sono delle accademie semplicemente costituite da avvocati. Io tutto sommato con quella mescidanza interclassistica di cui parlava Condam ieri sono fino a un certo punto d'accordo, perché ci sono accademie, quelle cavalleresche eccetera, in cui sono costituite solo da nobili, e semmai ci sono accademie, diremo di così in termini equivoco, di borghesi, certo, ma con specificità professionale. Quindi più che la mescolanza, direi la gerarchizzazione. Che così. Direi che l'interesse per il diritto nell'ambito veneto è un interesse che tutto sommato resta di tipo culturale e non si traduce in prassi normativa, perché a Venezia, in tutto il territorio veneto, c'è questa antitesi tra diritto consuetudinario e ogni tanto il tentativo, spesso franoso, di metterlo, di codificarlo, di metterlo insieme, di riordinarlo, e le commissioni create all'uopo sono costanti, e lo ius cesareo, che è quello che viene insegnato all'università. Per cui abbiamo un diritto che di fatto, a cui di fatto si fa riferimento, e il diritto romano, che resta così un'ipotesi che mal è una memoria culturale, che mal si combina con la prassi. È difficile. Però la facoltà di diritto di Padova è molto curata, e sì, tantissimi giuristi. Allora, abbiamo, teniamo conto, scusate, mi dispiace, sono le 11, dobbiamo dare la parola alla signorina, dopo c'è una pausa e poi c'è Maccagni con tutto il suo sistema. Mi tanto ringrazio perché dalle domande mi sono venuti molti stimoli che credo siano molto utili. Allora, cerco di dire brevemente, questione del remismo del professor Giordani. Sì, appunto. Più forte, più forte e più piano. Allora, vale, non solo diciamo, vale genericamente quella indicazione un po' banale ma sempre preziosa, che in realtà c'è un'interazione di elementi di derivazione platonica e di elementi di derivazione aristotelica, che del resto ha radici molto, molto antiche. In particolare, ecco, per quanto riguarda appunto il ramismo, è significativo, lo accennavo prima ma forse l'ho detto troppo rapidamente, che nel discorso per le rime del Contile del Patrizio del 60, lui indichi come suoi predecessori su questa linea di rifondazione della poetica e della retorica, appunto Agricola, oltre che Giulio Camillo. Più tardi dirà: in gioventù ho letto Ramo, mi è piaciuto tanto, adesso non trovo più questo testo, non so a chi scrive certe cose, ovviamente. Poi, dunque, la, quell'altra questione che poneva, diciamo, dunque, allora, le, qui, al centro, diciamo, nel modello antropomorfico rappresenta il petto, no? Corrisponde al petto, c'è il Consiglio delle Scienze, che poi si articola in diverse stanze, che sono teologia, filosofia, matematica, giurisprudenza e lettere. Queste sono le cinque, le cinque classi. Ora, come le cinque? La mano. Per quanto riguarda i problemi di iconografia, mi sembra che lei ponesse i simboli, eccetera, non mi risulta purtroppo che abbiamo una documentazione. Gli unici elementi che ho trovato sono in questi articoli di Ivanov che citavo, che riguardano però piuttosto la Marciana, dove ci sono due elementi interessanti. Ora magari dovrei vedere meglio gli appunti. Comunque mi sembra di ricordare che Tiziano aveva appena dipinto la Sapienza, per fare i lettori, quando appunto l'Accademia comincia a tenere le proprie riunioni. E così come c'è una rappresentazione anche piuttosto grottesca, sempre alla Marciana, dei procuratori che avevano dato permesso appunto all'Accademia di Udinese. Evidentemente sono elementi molto scarsi. Un altro elemento, Ivanov dice che nella decorazione ci sarebbero, del vestibolo mi pare, ci sarebbero influenze dello Zorzi, cioè di Francesco Giovenco. Sono elementi molto sparsi, forse per una ricerca maggiore si potrebbero avere più elementi. L'altra questione è in che ordine vengono fatte le lezioni pubbliche. Anche qui qualche elemento che si può rintracciare soprattutto dalle lettere di Bernardo Tasso, che in quanto cancelliere è quello appunto che dà conto, no? Pubblicizza, insomma, intrattiene legami. E mi sembra di aver capito, anche questo è evidentemente sempre, che l'ordine con cui venivano fatte le lezioni pubbliche rispecchia l'ordine con cui si susseguono appunto le varie classi o stanze nel Consiglio delle Scienze. Si comincia con la teologia, dopodiché si dice saranno utili a questi nobili giovani che appunto poi faranno politica. Quindi discendente. Sì. Le cose che diceva Benzoni mi sembrano di un grandissimo interesse, quindi lo ringrazio per l'indicazione che mi dà. Per quanto riguarda questo filone platonico presente a Padova, intanto, ecco, a me questo mi ha sempre incuriosito. Patrizio poi ha legami molto forti con le accademie fiorentine, c'è questo scambio anche con l'Accademia dei Bardi, no? Perché sì, le ricerche musicali dei Bardi si intrecciano con la tematica dell'armonia, con un recupero anche filologico, poi si rivela in realtà poco consistente, ma quello che aveva in testa loro era un recupero filologico, eccetera. Tra l'altro, ecco, sembra di capire che anche a Padova queste spinte diciamo di recupero di testi proprio neoplatonici vengono non tanto dall'università, di cui Patrizio parla molto male, anche se poi in realtà utilizza anche qui più elementi aristotelici, più elementi della tradizione medica di quanto gli piace dire, ma ad esempio dalla scuola del Santo, ad esempio dai frati francescani. Lui dice: ho letto la teologia di Ficino perché. Ecco, quindi dal punto di vista culturale, storia culturale, questo appunto va benissimo incontro con quello che diceva lui, e cioè c'è questa inquietudine che ha dimensione di capire anche il tipo politico e sociale, che trova una sua espressione non tanto nella cultura universitaria aristotelica, ma sempre a Padova. E con lo svincolo accademico, vuol dire, sono contenti, sì, nelle aule universitarie, vanno, certo. Ci sono tutte queste scuole. Certo. E poi c'è il ridotto Morosini. Questo spiega quel filone, diciamo, di resistenza al trionfo dell'aristotelismo anche nel campo delle teorie letterarie, appunto, che si ha, e che è sull'asse Vento Firenze, dove tra l'altro si riallaccia la tradizione molto difficile. Ora, i problemi poi dei rapporti, diciamo, tra la Germania. Dunque, per quanto riguarda, diciamo, rapporti chiari con la riforma, mi sembra resta in modo comprensibile che non ci siano tracce, perché se eventualmente ci c'erano, non state sicuramente. Questi accademici andavano messa, come era scritto. Ecco, d'altra parte, io rileggevo recentemente, leggevo la prima volta di Segni, la parte che ha fatto Miccoli sulla storia religiosa, cui riprende una serie di elementi di ricerche, e mi sembra che l'elemento interessante che viene fuori è questo, cioè è l'inquisizione. E siamo noi a nostra volta influenzati da una lunga tradizione, diciamo, che sentiva il bisogno di riportare entro schemi teologicamente ben chiari e definiti una ricchezza di posizioni. Mancano gli avvertimenti di Febvre. Appunto, certo, io ci stavo mettendo, solo perché l'ho letto più di recente, che appunto anche lui. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che non fossero influenzati dalla riforma, ma che almeno sembra di capire. Perché poi c'è una sembra di capire che appunto c'è un modo di vivere l'esperienza anche la tematica religiosa, appunto, che usa non solo userà quella pratica nicodemitica, ma usa quel linguaggio che si rifà al modello ermetico, che garantisce una pluralità di significati. Cioè, io dico una cosa che per la struttura del discorso con cui la dico, di tutta la riflessione su proprietà di significato del testo poetico, può essere letta in diversi modi. Cioè, diciamo, in parole povere c'è tutta una ambiguità, diciamo, o una complessità, se vogliamo, diciamo, di ritraduzione dell'esperienza religiosa, che si rifà poi ai modi in cui in Italia, diciamo, si sono sviluppati questi centri che si chiamano della riforma cattolica. Un'altra notizia interessante sui rapporti con la Germania l'ho trovata in questo articolo suo, in questo articolo di Urbioni, sull'Accademia Veneziana, che mi era sfuggito. Cioè, io sapevo che l'Accademia Veneziana aveva mandato un programma di pubblicazioni alla Fiera del Libro di Francoforte, dove tra l'altro poi era anche Bruno, insomma era un centro molto importante, e cosa appunto che non sapevo, di lì avevano avuto una risposta molto negativa, non mi sembra poi probabilmente di poter dire meglio. Ecco, quindi questo, insomma, mi sembra è un po' l'uso. Cioè, ecco, elementi di riforma, certo, non in modo chiaro, non in modo esplicito, ma piuttosto introdotti in questo clima per cui appunto si vuol tradurre il dottore. di cui giustamente Bengo aveva detto, ma io non mi fido, perché poi c'è Cabala, così mi sembra che sia pericoloso. Anche Contarini, certo. Visto accusa di essere un ariano. Ora poi, il problema della diffidenza diciamo, dell'autorità, nasce da questi rapporti stretti con alcuni personaggi, di cui poi eventualmente posso dare le indicazioni. Ma come ricordavo prima, c'era una tutela gelosa da parte dello Stato, anche dei rapporti personali dei propri fazzizi. Questo divieto che cioè, non si capisce questo divieto che c'era, no? No, c'era un fatto che quando arrivava una personalità dall'estero, Venezia nominava i patrizi che dovevano accompagnarla, i giovani, anche Enrico IV quando arriva nel 1534, sì, erano invece proibiti i rapporti personali. Ecco, e lì invece si sospettava che lui... Allora, c'è qui effettivamente l'arte. L'altro mi sembra molto interessante, cioè il fatto che nel primo 600 si cerca di risalire dalla disposizione a una tipologia, diciamo... Ecco, ma mi sembra anche lì sarebbe da vedere quali sono i canali, perché qui non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sembra che Von Besold, per esempio, sia uno di quegli intellettuali tedeschi che sono molto interessati all'opera di Telese, all'opera di Campanella. E lì c'è una riflessione, un tentativo di rifondazione del linguaggio su basi naturali. No, quindi ritroviamo, diciamo, una tematica che è più di tipo naturalistico piuttosto che metafisico, ma che ha in comune, diciamo, l'idea che ci sia un collegamento tra strutture dell'uomo e strutture del suo linguaggio. Due ultime questioni. Mi sembra molto stimolante l'indicazione che dà il professor Raimondi, che quando parliamo del metismo c'è la traduzione, la riproposizione di nuove tesi, la tradizione ermetica, ma anche rilettura della tradizione patristica e quindi anche riscoperta di ciò che della tradizione ermetica e soprattutto antica era presente. Ecco, qui dobbiamo superare un po' certi schemi, ad esempio. Nello studio della retorica, io in questo periodo sto leggendo molto molte tesi che ho potuto fare, e mi sono chiesta quanto risentono negativamente, ad esempio probabilmente, certi studi sul trascurare il fatto che le prediche molto presto sono scritte in volgare, hanno una struttura e di tipologico, di tipo retorico molto articolato. Quindi, certo, c'è dietro anche la retorica classica, quindi, però ecco, forse noi a volte dividiamo un po' troppo i campi, trascuriamo un po' questi elementi. Ora, poi, tra l'altro, il recupero dell'ermetismo, a mio parere, non comporta necessariamente le stesse posizioni, e qui non sono d'accordo con Weinberg, ad esempio, verso la tradizione religiosa. Appunto, Tasso infatti polemizza con Patrizio, no? Perché è su un'altra linea e Patrizio cerca di recuperare l'Ariosto piuttosto che il Tasso. Per fare un esempio molto semplice, c'è il recupero anche in Celio Magno, no? La tematica del furore poetico. Ma per Celio Magno cos'è? È quello che per Davide era l'ispirazione divina. Per i Patrizi no, è tutta una cosa da spiegare che non ti sto a raccontare. Un'ultima osservazione, poi finisco davvero, questo problema della mescolanza non interclassista. Questo a me aveva interessato, tra l'altro avevo cominciato a studiare un po' l'Accademia, appunto, partendo da Patrizi, no? Quindi è un'ottica un po' particolare. Aveva interessato questo fatto. Patrizi, che veniva da una famiglia in cui l'Inquisizione, con il pieno consenso dello Stato veneziano, aveva trattato molto male, per motivi eretici e politici, diciamo, suo padre, suo zio, insomma, scrive nel 1953 La città felice, no? Che è questa utopia basata su una rigida divisione del lavoro che esalta e assolutizza il modello veneziano. Allora, secondo me, questo ambiente in cui c'è un'aristocrazia che non è solo di sangue, ma in cui anche gli intellettuali non possono avere un ruolo, rappresenta un momento in cui lui può vedere, in qualche modo realizzato, come dicevi giustamente, la Repubblica che sognavano gli umanisti, no? Sì. Questa aristocrazia in cui però entrano anche questi che non sono o che sono di nobiltà molto incerta. Cosa che va immediatamente in crisi. Tanto è vero che questa unione, diciamo, positiva tra aristocrazia politica e di sangue e intellettuali, che tra l'altro metafisicamente hanno tutto questo rapporto privilegiato con la mensa, tutta una impalcatura teorica dietro questo, va in crisi proprio tra il 60 e il 62, non ha senso scrivere storia, no? Tutta falsificazione, dice il Patrizio di Diario sulla storia, così come c'è una dissoluzione della retorica perché è vista come falsificazione, eccetera. Quindi è vero che in questa fase, diciamo, ha un senso l'Accademia anche come tentativa, naturalmente molto ideologizzata, eccetera, di ricomposizione in qualche modo, una ristorazione che non sia solo di Gelso, di Napoli. Hai detto la pausa. Solo 10 minuti, anzi un po' meno se è possibile.